Ottobre piovono libri. Da giovedì 15 fino a domenica 18 a Firenze The Gusti Books, una manifestazione dedicata ai libri e al cibo. Non solo volumi che parlano di cucina e ricette, ma anche classici della letteratura nei quali il cibo è parte importante della narrazione. Laboratori, degustazioni, presentazioni, come spiega Lirio Mangalaviti, coordinatore dell'iniziativa, al microfono di Ubaldo Cianciulli. C'è un ricchissimo calendario di presentazioni di libri, ma anche di laboratori tematici, di degustazioni, di spettacoli, per cui c'è una vasta gamma di possibilità di potersi intrattenere piacevolmente assaggiando i cibi, incontrando gli autori che hanno scritto di cibo o semplicemente degustando un calice di un buon vino. E il critico gastronomico, nonché curatore di The Gusti Books, Leonardo Romanelli, ci parla di un'iniziativa particolare. Si rinnova l'appuntamento con i food show, sarebbe a dire l'idea di cucinare di fronte alle persone e con vari chef che si prestano a parlare e dialogare con il pubblico attraverso ricette che saranno quindi chiaramente replicabili. Vari personaggi, da Filippo Lamantia e Italo Bassi, che chiudono la manifestazione proprio domenica, e prima tutti gli chef che compongono lo staff della trasmissione Chef per un giorno. Quindi interessante questo insieme di personaggi cuochi ma anche comunicatori. Un appuntamento direi un pochino fuori dagli schemi, perché ci sarà un forte dialogo con il pubblico, il cucinare e il parlare dall'idea del facilità anche del poter riproporre quelle ricette che loro faranno. Credo poi ci sia molto carina la degustazione che farà Andrea Gori, il cosiddetto sommelier informatico, perché è un sommelier a tutti gli effetti, ha un blog molto interattivo, comunica molto attraverso Twitter, attraverso Facebook, farà una degustazione legata anche alla musica. Interessante capire quanto la musica possa aiutare la concentrazione nella degustazione. L'appuntamento con The Gusti Books è da giovedì a domenica alla Fortezza d'Abasso di Firenze. Tutte le informazioni su www.degustibooks.it. Le notizie sulle altre iniziative di ottobre piovono libri su www.cepel.it oppure radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco. Ottobre piovono libri, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura.